English Bit di Giulia Crivelli. Leak. The Panama Papers exposed the secret world of the 1%. The leak has already had major consequences. Il settimanale americano Time, come praticamente ogni altra pubblicazione online e offline del mondo, si è occupato nei giorni scorsi dei Panama Papers, spiegando che i documenti dello studio Mossack Fonseca di Panama hanno svelato il mondo segreto dell'1%. È un modo di dire comune nella lingua inglese: l'1% sta per l'1% della popolazione, i famosi happy few, cioè i più ricchi. Attenzione alla parola to expose, a suo modo un false friend, perché vuol dire mostrare, svelare, non esporre, tanto che esposizione nel senso di mostra d'arte si dice exhibition, non exposition. Il leak, scrive sempre Time, ha già avuto conseguenze importanti, major. Il termine che ci interessa è proprio leak. Ci è diventato familiare anche grazie a WikiLeaks, il nome del sito fondato da Julian Assange. Il significato letterale di leak, che è sia sostantivo sia verbo, è buco, perdita. Ci può essere quindi un leak in the roof, un buco nel tetto, o un leak in the gas pipe, un buco nel gasdotto. E quindi si può dire the roof was leaking, che in italiano tradurremmo con il tetto perdeva. Veniamo però al significato figurato. Possiamo pensare a un leak to the press about the government plan on tax, una fuga di notizie da cui la stampa ha preso i dettagli del piano governativo sulle tasse. A volte, passando al verbo, si può trovare la forma rafforzata to leak out. Details of the reform soon leaked out. I dettagli sulla riforma presto trapelarono. Tornando al titolo di Time, un commento merita anche l'uso dell'aggettivo major, che non significa maggiore, ma importante, primario. There were calls for major changes to the welfare system. Ci furono appelli, calls, perché si introducessero importanti cambiamenti nel sistema del welfare. Come sostantivo, major significa sia maggiore nell'esercito, sia, cosa forse meno nota, specializzazione universitaria. What is your major? Possiamo chiedere a uno studente di college per sapere non tanto in cosa si stia laureando, in questo caso il percorso di studio è più lungo, ma quale sia la materia sulla quale ha concentrato gli sforzi nei suoi primi 4 anni di studi post liceo. La risposta può essere My major is French, sto studiando lingue e francese in particolare, oppure I majored in physics, se il percorso scelto è più scientifico, cioè nella fisica.